Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Non c'è un rigido controllo del territorio tipico delle associazioni mafiose, ma il terremoto attirerà gli interessi della criminalità. Gli investigatori lo mettono nero su bianco. La malavita organizzata cercherà di entrare nel grande business della ricostruzione. Per vicinanza geografica ed esperienza acquisita, diciamo così, nel sisma dell'Irpinia, la Camorra sembra in pole position nelle possibilità di infiltrazione, ma recenti inchieste hanno accertato presenza nella regione anche di interessi delle altre associazioni mafiose, a cominciare da Cosa Nostra, poi l'Andrangheta e la Sacra Corona Unita. Nel rapporto consegnato ai magistrati dell'Aquila, gli investigatori dividono la regione in tre fasce di interesse operativo. Ad una mano alla procura abruzzese sul fronte ricostruzione sarà anche una specifica task force messa a punto dalla Procura Nazionale Antimafia, come ha annunciato il procuratore Piero Grasso, e a lavorarci anche il sostituto Vincenzo Macri. La Procura Nazionale Antimafia da subito, attraverso i suoi sostituti, ha, come dire, lanciato l'allarme del pericolo di infiltrazioni mafiose in Abruzzo. Questo allarme è stato raccolto dalle più alte autorità istituzionali, come il Presidente della Camera, il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, e quindi di questo noi siamo soddisfatti. Detto questo, bisogna dire che al momento non si può parlare di infiltrazioni mafiose in atto, ma solamente di pericoli, perché sulla base della nostra esperienza, laddove c'è flusso di denaro si scatenano gli appetiti delle organizzazioni mafiose, e quindi è bene prevenire questi pericoli piuttosto che contrastarli quando ormai sono già avvenuti. Ecco, è appunto l'esperienza passata, una su tutti, il caso dell'Irpinia. Con tutto ciò che c'è stato dopo e con tutto ciò che le inchieste successive hanno ricostruite, che vi porta a lanciare questo campanello d'allarme sulla ricostruzione in Abruzzo? O c'è dell'altro questo, anche, degli altri elementi? C'è intanto il precedente molto preoccupante dell'Irpinia, che ha creato la camorra imprenditrice, ma vede, c'è anche un altro pericolo nelle infiltrazioni, quando avvengono infiltrazioni mafiose, che la ricostruzione avviene molto più lentamente e molto male, tant'è vero che ancora oggi la ricostruzione in Irpinia non si può dire completata, quindi aggrava anche, come dire, la qualità della ricostruzione, oltre che contribuisce all'arricchimento delle organizzazioni mafiose. Ma noi diciamo che da allora sono passati 30 anni e le mafie hanno avuto un'evoluzione notevole, oggi sono presenti un po' in tutta Italia e anche in Abruzzo, sia pure con forme non ancora molto preoccupanti come in altre regioni. Ecco, ci arriviamo proprio su questo, cioè sulla presenza o meno di clan malavitosi anche in Abruzzo. Però, facendo un passo indietro, a proposito di quanto lei ha detto poco fa, ecco, una ricostruzione guastata, infiltrata dalla malavita organizzata, è anche una ricostruzione fatta male, oltre che malavitosa. Quali sono, secondo voi, diciamo da questo punto di vista, gli aspetti più a rischio? Sono legati alla storica presenza dei clan malavitosi in imprese che hanno a che fare con edilizia, che sono i settori più spesso ambiti dalla malavita organizzata, oppure c'è anche un pericolo ambientale, di rischio e di degenerazione ambientale, che ad esempio in Irpinia c'è stato anche quello? C'è l'uno e l'altro. Il settore dell'edilizia è quello che tradizionalmente è più inquinato e più soggetto ad infiltrazioni mafiose, non soltanto nelle regioni meridionali ma anche in altre regioni, penso per esempio alla Lombardia. Quindi questo è un dato ed è prevedibile che una serie di imprese con coperture molto ben organizzate tentino di infiltrarsi nei lavori di ricostruzione dell'Abruzzo. Poi c'è anche il problema dell'inquinamento ambientale che questo porterà, cioè il tentativo anche di contatti con le pubbliche amministrazioni locali, tentativi di corruzione, tentativi di intimidazione che in queste occasioni accompagnano queste infiltrazioni. E quindi bisogna stare attenti su entrambi i versanti. Ne si è spesso segnalata una possibile presenza nella fase più bassa, diciamo, di questi lavori di edilizia, ossia quella del movimento terra. È da lì che bisogna partire per evitare che ci siano infiltrazioni anche nei livelli più alti. Quello, ma non soltanto quello, penso per esempio anche alla fornitura di materiale inerte, penso alla fornitura di calcestruzzo, penso anche al trasporto del materiale, alla fornitura di manodopera e a tanti altri, diciamo, settori che sono intorno, gravitano intorno ad una ricostruzione di queste dimensioni così massiccia. È vero che ci sono molte imprese in Abruzzo che si occupano di edilizia e questo potrebbe essere una garanzia, però è prevedibile che ci siano tentativi di infiltrazione anche attraverso intimidazioni nei confronti degli imprenditori locali, che dovranno subire il rischio di, come dire, di fare entrare dei soci non graditi dentro le loro imprese. Come si risolve? Come si esce da questo impasse? Si è parlato della creazione anche all'Aquila di una lista di società positive e di quelle negative. Questa è la strada? Come si esce da questo problema? Questa è la creazione della lista delle società virtuose e di quelle meno virtuose, è senz'altro una degli strumenti praticabili. È stata proposta la tracciabilità di tutti i movimenti e flussi di denaro in entrata e uscita da parte delle imprese che si occupano della ricostruzione, e anche questo è una buona iniziativa. Penso anche alla previsione di protocolli di legalità con l'obbligo per le imprese di denunciare tentativi di intimidazione o di infiltrazione di qualunque genere, pena la perdita, la revoca dei contratti di affidamento e poi un monitoraggio attento di tutto quello che avviene sul territorio e tentativi di costituzione di imprese nuove create ad hoc proprio per questa occasione. Appunto, tutto questo succede in Abruzzo, una regione che non è considerata tra quelle a più alto rischio malavitoso, né è una delle regioni, diciamo, in cui hanno tradizionalmente sede i più importanti clan malavitosi italiani. Che tipo di regione è da questo punto di vista l'Abruzzo? È vero che l'Abruzzo non è una regione particolarmente soggetta a presenze mafiose, per fortuna, però ci sono già delle indagini che hanno consentito di accertare l'esistenza di organizzazioni che sono soprattutto finalizzate alla distribuzione di sostanze stupefacenti, della canapa, la cocaina, che operano soprattutto lungo la zona costiera turistica e che sono composte sia da italiani, calabresi, campani in primo luogo, ma anche da rumeni, albanesi, magrebini, c'è anche una presenza di cinesi, anch'essi legati a traffici di prostituzione, insomma ci sono tante presenze sul territorio che devono essere attentamente monitorate. C'è anche una presenza di Cosa Nostra nel settore del riciclaggio e direi che bisogna stare attento anche agli investimenti nelle località turistiche di montagna da parte di mafie dell'est. Non c'è un'organizzazione unica nel traffico di sostanze stupefacenti, non solo in Abruzzo ma in tutta Italia operano sempre vari gruppi che hanno proprie fonti di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti e propri strumenti anche di riciclaggio. Sicuramente chi ha la disponibilità di avere le forniture grosse di partite di sostanze stupefacenti riesce a controllare anche il mercato della distribuzione, quindi penso soprattutto alle clan della Camorra e quelli dell'Andrangheta che in questo settore hanno sicuramente una presenza più qualificata. Poi la rete di distribuzione spesso è affidata appunto a organizzazioni minori, albanesi, rumeni, magrebini e quant'altro. Quale organizzazione malavitosa potrebbe essere più interessata? e avrebbe, potrebbe avere più chance di riuscire nel suo intento di infiltrazione negli appalti per la ricostruzione post terremoto in Abruzzo? Guardi, non è facile fare una previsione, però sulla base dell'esperienza io direi che il pericolo maggiore proviene dai clan della Camorra e dalle cosche dell'Andrangheta, che in questo settore hanno, come dire, un'esperienza sul campo già da molti anni. E non è esclusa neppure presenza di Cosa Nostra, però vedrei più che attraverso imprese, attraverso, diciamo, come dire, investimenti di tipo finanziario. L'esperienza dell'Andrangheta a cui lei fa riferimento, a che cosa in particolar modo lei la lega? Dei casi specifici oppure ad un know-how? La lego intanto a un'esperienza nel settore che è molto antica. La lego al fatto che ci sono state registrate nel recente passato presenze di 'ndrangheta anche in regioni come Umbria e Marche e Lazio. La lego anche a quello che è avvenuto e sta avvenendo in Lombardia e quindi direi che è una conseguenza naturale la mia previsione. Per quanto riguarda la Camorra e la relativa vicinanza geografica a fare temere che ci sia un inserimento di questo genere. E poi appunto potrebbe pesare anche l'esperienza, diciamo così, dell'Irpinia, della ricostruzione in Irpinia. Beh, certo, siamo, ripeto, sono regioni quasi confinanti e quindi questo c'è da temere, e poi c'è stata quell'esperienza. Importante è che non si creino collegamenti fra diciamo, le organizzazioni mafiose e gli ambienti amministrativi che dovranno presiedere alla ricostruzione. E come si fa a non crearli, secondo lei? Attraverso un rinnovamento oppure, al contrario, è maggiore garanzia di trasparenza il fatto che si lavori con ditte e con amministratori del posto? Una garanzia assoluta non c'è mai con nessuno strumento. Occorre che la politica eviti qualunque tipo di contatto con queste organizzazioni, che non come dire, accetti il baratto elettorale, consenso elettorale, e che appunto persegua una politica di rigore proprio per la salvaguardia delle popolazioni dell'Abruzzo, che non meritano, oltre diciamo, lo strazio del terremoto, anche poi l'insulto della presenza della criminalità organizzata su quel territorio. I settori nei quali si infiltrano le organizzazioni mafiose sono anche quelle della fornitura di sabbia, materiale inerte, pietrisco e così via. Quindi direi che in questo momento è importante fare un monitoraggio delle cave presenti in Abruzzo, accertare quali sono autorizzate, evitare la creazione di cave abusive e quindi controllare attentamente questo settore, che potrebbe portare anche danni all'ambiente, non c'è dubbio. Se l'Irpinia è un po' il precedente negativo che tutti conoscono, ci sono state inchieste che hanno accertato presenze malavitose in altre ricostruzioni post-sisma? Sicuramente nel Belice, certo, il terremoto del Belice ha visto anche lì la presenza di organizzazioni mafiose. Non risultano inserimenti di questo genere nel Friuli, mentre in Umbria c'è stato, anche nel terremoto di Umbria e Marche, c'è stato qualche tentativo di questo genere. Diciamo che la storia ci deve insegnare a stare molto attenti proprio nella prima fase, nella fase iniziale della ricostruzione. Storielle. Storiacce. Il famoso rischio mafia, che è stato sottolineato anche dal procuratore nazionale antimafia, con l'accordo assoluto con quello che stiamo facendo noi, si prospetterà come esigenza di stare attenti a che le società, le ditte, le imprese che si avvicineranno a questi necessari lavori di ricostruzione della città, che è una città fantasma, e in quel momento potrebbero essere persone che non danno le giuste garanzie sotto questo profilo, e pertanto forse si farà una lista di ditte bianche e nere per fare i lavori alle persone che lo meritano. Certo. E noi ci meritiamo. Al procuratore capo dell'Aquila, Alfredo Rossini, gli investigatori hanno consegnato un dossier ben dettagliato sul rischio mafia nella ricostruzione, un dossier zona per zona. Solo un mese fa, nella zona della Marsica, tra i comuni di Avezzano, Carsoli e Tagliacozzo, sono stati sequestrati beni e riconducibili al cosiddetto tesoro di Vito Ciancimino. Si evidenzia anche questo nel dossier degli investigatori affidato alla procura dell'Aquila, un dossier che si sofferma però soprattutto sull'influenza camorristica che ha già tentato di mettere radici nel tessuto economico produttivo, si legge, dell'Alto Sangro e della Valle Peligna con Roccaraso e Sulmona. Qui è stata riscontrata la presenza di membri del clan Aquino Annunziata di Bosco Reale e dei Di Lauro, localizzati però in prevalenza sulla costa. Nelle province di Teramo e Pescara invece si concentrerebbero gli interessi dell'Andrangheta calabrese in relazione al rinnovato attivismo, si legge nel dossier, di gruppi criminali dediti allo spaccio e al gioco d'azzardo. Infine, solo lo scorso novembre erano stati arrestati lì tre pregiudicati foggiani impegnati nei traffici di stupefacenti. Dunque non fortino delle associazioni malavitose, ma senza dubbio ambita da tutti i clan è la regione Abruzzo, ed è per questo che ora l'allarme infiltrazioni è alto. Ma ora, con gli uffici pubblici crollati e anche la procura sfollata in un altro edificio, l'impegno primario dei magistrati è accertare le eventuali responsabilità di quei crolli che hanno ucciso 295 persone. Decine le denunce già ricevute e le prime persone sono state anche già interrogate. Nel fascicolo è finito anche un dossier del 2005 con l'elenco dei palazzi a rischio. Il procuratore dell'Aquila, Alfredo Rossini. Parte certamente di tutto quello che stiamo raccogliendo, che adesso abbiamo catalogato, e poi vedremo. Ecco, la vostra inchiesta sta proseguendo nei sequestri delle altre aree da dover esaminare, degli edifici? Una considerazione che facciamo, in un certo senso ci rallegriamo con noi stessi, perché un'inchiesta così complessa sta andando molto veloce. E adesso stiamo facendo dei sequestri, come voi sapete, abbiamo sequestrato anche ulteriori cose e quindi stiamo facendo i sequestri di tutto il materiale che ci può essere utile per andare avanti. Sono sequestri appunto dalle macerie dei palazzi crollati? In parte edifici, in parte depositi di documenti, insomma roba di questo genere. State partendo dagli edifici pubblici? Sì, insomma, andiamo un po' in parallelo, prevalentemente i grandi edifici pubblici, ma un sito che stiamo approfondendo molto, è perché vorrei arrivare con più rapidità degli altri a dei risultati, diciamo così, processuali, e il sito dove erano alloggiati quegli studenti che ha avuto quella sorte che lei sa. Certo, ecco, intorno alla casa dello studente, procuratore, si stanno in questi giorni sollevando anche le denunce e i racconti dei familiari delle giovani vittime. Stanno arrivando anche a voi queste denunce? Noi, come detto, credo, stiamo portando avanti un'inchiesta, diciamo, aperta. Abbiamo aperto l'inchiesta a tutti coloro che ci vogliono dare dei contributi di fatti utilizzabili, naturalmente, non di opinioni, che naturalmente ognuno ha le sue. E tra questi, chiaramente, sono tutti elementi che possono provenire dalle denunce, ci arrivano in gran numero, e quindi anche di quelli che riguardano questo sito molto molto importante. Sono denunce circostanziate, si parla di segnalazioni di pericoli per la casa dello studente. Le stiamo esaminando, adesso man mano vedremo tutto quello che c'è e quello che possiamo utilizzare. Ecco, procuratore, da un primo esame, per quanto vi è stato possibile già osservarli, avete trovato, si era parlato di questo materiale, di questa sabbia presente anche in alcuni edifici e che appunto avrebbe forse, diciamo... Questo non è materia, diciamo così, di informazioni che ci possono dare delle denunce generiche, che ovviamente siano scollegate dal materiale a cui si riferiscono. Noi abbiamo sequestrato tutto quello che era possibile e utile sequestrare, e questi risultati potranno provenire non da opinioni di persone, ma dalle perizie di personale specializzato. Certo, e ovviamente voi ascolterete anche i costruttori. È una bella domanda. Non sappiamo bene in che veste, tutto qui. Non avete ancora gli elementi per capire se come teste o come indagati? Lei l'ha detto. Ecco, procuratore, lei ha subito dopo il terremoto ha assicurato di voler andare velocemente appunto in questa inchiesta. È anche una forma di dovere nei confronti delle tante vittime. Esattamente, andiamo velocemente ma cerchiamo di andare bene per non fare dei flop e poi un eventuale processo che sarebbe ancora più grave. Quali sono le principali difficoltà che voi in questo momento, in una situazione così drammatica, state affrontando? Vabbè, intanto sotto un profilo molto evidente il fatto che è crollato il nostro palazzo di giustizia, quindi lavoriamo così come dei nomadi, passando da un presidio all'altro, e facendo il lavoro bene ma con molte difficoltà. Quindi da un punto di vista logistico, ma io mi riferivo anche all'inchiesta, cioè voglio dire è un'inchiesta che comunque andrà a vedere, ad accertare eventuali responsabilità nella costruzione di palazzi della città che è crollata, dove ci sono state tante vittime, quindi c'è anche una componente diciamo emotiva che immagino non sia facile da gestire nella città che ancora è... Guardi, la comunque io rendo e tutta la popolazione che la vuol sapere delle cose, dei passaggi che stiamo facendo, per fargli capire che noi stiamo lavorando, che questo è un fattore che si è rivelato importante anche per una certa rasserneramento. Immagino, perché comunque ha anche nei confronti delle tante persone è il segnale che volete andare a vedere che cosa è successo, perché quei palazzi sono crollati. Noi vogliamo arrivare ai risultati. Procuratore, altre volte ci sono state delle indagini su terremoti forse meno disastrosi di questo, ma non è semplice, e questo voi lo sapete ovviamente, andare a stabilire delle responsabilità in questi casi, ne siete consapevoli? Il Presidente della Repubblica ha detto che ci sono delle responsabilità diffuse, io naturalmente mi associo a questa prospettazione. Noi però cerchiamo delle responsabilità individuali nel processo, perché altrimenti rimarremo sempre un pochino nel vago e magari nel dimenticatoio. È vero, procuratore, che sono i palazzi quelli nuovi che potrebbero essere quelli più sottoponibili al vostro esame, cioè quelli che dovrebbero aver avuto un'applicazione delle norme antisismiche? Beh, questa è un'impostazione abbastanza corretta. Lei ha parlato anche di una ipotesi un po' forse diciamo estrema, quella di arrivare direttamente all'arresto nel caso in cui ci sia una responsabilità accertata. Ma guardi, è stata un'espressione che mi è sembrata opportuna in un certo momento storico, quando una sua collega mi aveva detto: se troverete le prove creerete degli indagati. Dico: ma guardi, se troviamo le prove forse troveremo degli arrestati, ma cioè quando si trova la responsabilità per dei fatti così gravi, magari ci sono dei rischi, ne so, di legittimazione delle indagini oppure di confusione sulle prove e l'altra, può rendersi necessario questo provvedimento, ma è un discorso così. Discorso che fa capire che stiamo facendo comunque una cosa seria che tende alle naturali conseguenze. Avete già avuto e notate tentativi anche di così di bloccare o in qualche modo di delegittimare l'inchiesta? Può darsi,